La Francia è stata attraversata da un'altra giornata di grandi manifestazioni dopo quelle avvenute il 25 novembre contro la violenza sulle donne. Le manifestazioni di ieri, che hanno mobilitato ampi strati della società francese, si opponevano a una legge, la legge di sicurezza globale, che secondo loro potrebbe restringere fortemente le libertà pubbliche di espressione dell'opinione e di manifestazione in Francia. La legge in questione è stata proposta all'inizio di quest'anno per inquadrare e per allargare le competenze della Polizia Municipale, vigili urbani per intenderci, e per dare loro alcune competenze minori, più burocratiche, che fino ad oggi sono esclusive della Polizia Nazionale e dei Carabinieri, la Gendarmerie francese. Durante quest'anno, però, questa legge qui è stata modificata fortemente dal Ministro dell'Interno, che ha aggiunto articoli fortemente contestati da associazioni, sindacati e partiti. In particolare ci sono due articoli che hanno suscitato grosso scandalo e preoccupazione. Uno riguarda l'utilizzo dei droni durante le operazioni di polizia. Questo si può trattare di un arresto. Pensiamo agli episodi di terrorismo e di arresto di terroristi che ci sono stati ultimamente in Francia. Ma il timore molto concreto è che questi droni possano essere utilizzati durante le manifestazioni. Il secondo punto che crea grosso dibattito e preoccupazione è l'articolo 24 di questa legge. In questo articolo si vieta la ripresa e la diffusione di immagini di agenti di polizia sulle reti sociali e con qualsiasi altro mezzo. La preoccupazione del ministero e dei sindacati di destra della polizia, non di tutti, è che possa avvenire, come è successo ultimamente, che immagini di violenze o anche solo di azioni di polizia possano essere diffuse sulle reti sociali insieme a dati che permettano l'identificazione del poliziotto o dell'agente dei carabinieri che le sta effettuando. Molto spesso è successo anche che insieme alle immagini fossero associati elementi che potevano identificare questa persona anche col numero di telefono o con indirizzo di casa, rendendo quindi questa persona oggetto possibile di ritorsioni o di pressioni psicologiche o anche peggio. Il vero problema è che questo articolo qui impedisce di fatto di documentare i tantissimi episodi di violenza che sono avvenuti negli ultimi anni durante le manifestazioni, e ricordiamoci che parliamo di un paese che è in mobilitazione quasi continua, mi viene da dire, da quando fu proposta la prima riforma del lavoro nel 2016 e che ha visto grandi manifestazioni limitate, diciamo, dai vari governi con una violenza sempre maggiore da parte delle forze di polizia. Cosa avverrà se questa legge verrà approvata? Chi effettua queste riprese e le diffonde senza permesso potrà essere portato in tribunale e rischiare una condanna penale oltre a una multa fino a 45.000 euro. C'è un problema che, come sappiamo, con le reti sociali non si può sapere se la ripresa è fatta e registrata sul telefonino, per esempio, per essere poi caricata in seguito, o se invece si tratta di una trasmissione in diretta che si fa tramite la propria pagina Facebook o tramite Instagram, per cui la gente potrà effettuare un arresto diretto perché sospetta che quella ripresa possa essere una diretta, e la persona oggetto dell'arresto si troverebbe quindi in prigione fin tanto che non si dimostra che quel video non è stato diffuso. E stiamo attenti perché questo non limita solo il singolo cittadino che cerca di documentare un'azione violenta della polizia, perché anche i giornalisti vedrebbero limitata la propria azione. Infatti, non tutti i giornalisti potranno documentare e diffondere queste cose qui, ma solamente quei giornalisti accreditati presso la prefettura. In un certo senso si legalizza il giornalismo embedded che avevamo visto durante la guerra in Iraq, cioè i giornalisti graditi alla prefettura potranno effettuare riprese e diffonderle sul proprio canale televisivo, sul sito internet, come per esempio quello della nostra radio, o sulle reti sociali, mentre i giornalisti in regola come gli altri, iscritti all'albo, eccetera, eccetera, ma senza questa autorizzazione, non graditi alla prefettura per qualche ragione, rischieranno, come la persona singola, di incorrere in denunce penali, nel possibile arresto e in multe molto pesanti. Ci tengo ad aggiungere due punti che risaltano molto se si fa il confronto tra la Francia e l'Italia. Qui, come abbiamo visto, ci sono grandi manifestazioni e anche scioperi negli ultimi giorni, al contrario di quello che avviene in Italia. Le manifestazioni non sono vietate né in Italia né in Francia. Qui in Francia le persone partecipano, vanno alla manifestazione con un'attestazione situazione, come per qualsiasi spostamento, in cui un'associazione di diritti umani giustifica questo spostamento col fatto che il manifestare il proprio pensiero è un diritto umano tutelato dalla Dichiarazione dei diritti umani, ma anche dalla Costituzione francese, come da quella italiana, d'altra parte, e che al contempo il manifestante si impegna a rispettare il diritto alla vita proprio in realtà e delle altre persone, e quindi a tenere tutti quei comportamenti che impediscono la diffusione della pandemia, mascherina, distanziamento, eccetera, eccetera. La seconda cosa che risalta è che i manifestanti di ieri gridavano libertà, libertà, nello stesso modo in cui lo facevano i manifestanti italiani di qualche settimana, ma si trattava di due libertà ben diverse. Qualche settimana fa in Italia si chiedeva la libertà di fatto di continuare la propria vita normalmente, nonostante i centinaia di morti che ci sono ogni giorno negli ospedali. Ieri si chiedeva di mantenere le libertà democratiche di manifestazione e che non si cogliesse l'occasione di questa crisi pandemica sanitaria per restringerle sperando che le persone non manifestassero.